Il punto di Stefano Folli. Qualcuno legge nel videomessaggio serale di Berlusconi il segno della riscossa, la promessa di cavalcare elezioni vincenti. Non è così. Quel messaggio disperato e anche commosso è il sigillo finale, persino nelle modalità, di una lunga stagione politica conclusa con un processo penale. Si discuterà a lungo se questo sia giusto o non rappresenti piuttosto una forzatura gravida di conseguenze per gli equilibri democratici. Ognuno ha la sua risposta. Lo stesso Presidente della Repubblica ha chiesto una riforma della giustizia e qualcosa vuol dire. La verità è che l'Italia entra comunque nell'era post-berlusconiana ed è un passaggio tormentato, carico di incognite. Nessuno può illudersi che avvenga senza strappi e formidabili tensioni che rischiano di scaricarsi sul governo Letta. Nessuno crede che l'alleanza fra PD e PDL sia oggi più solida di ieri. Eppure Berlusconi ci penserà mille volte prima di mettersi alla testa di una crociata antisistema, come vorrebbero certi suoi seguaci. La verità è che quel 30% che ha votato Berlusconi in febbraio ora è smarrito e indeciso. Ma senza quel 30% o una consistente parte di esso, l'Italia non si governa.